Radio 24 Reportage. Milano, cuore del buddismo europeo, di Katia Caramelli. 3 anni di lavori e dalle ceneri del complesso rurale della Cascina La Guardia di Sopra, un tempo casa di contadini durante il casato degli Sforza e dei Visconti, ha preso forma il Kaikan, il castello. Siamo a Corsico, alle porte di Milano, al centro culturale Ikeda per la Pace, uno dei più grandi complessi buddisti di Europa. 38.000 metri quadrati tra alberi, prati ed edifici nati dalla fantasia dell'architetto Giampiero Peia. 4 sale di culto, la più grande con 1.000 posti a sedere. Quando arrivo risuona il Sutra del Loto, Nam-myo Renge Kyo, che alcuni fedeli stanno recitando. La stessa preghiera recitata il giorno dell'inaugurazione, il 27 ottobre, tra la gente comune, le autorità politiche e religiose e i volti noti come Roberto Baggio, da 27 anni buddista. Credo che il buddismo può aiutare le persone a diventare felici, già questo non è poco. Tante persone stanno cercando di scoprire questa filosofia, perché comunque aiuta moltissimo tutte le persone, tutte hanno la capacità di diventare felici e ci vuole il mezzo per farlo. Accanto a lui, seduto in prima fila nella grande sala principale dedicata alla meditazione, il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, scherza. In alcuni paesi dove il buddismo e la religione a maggior numero di aderenti, ho vissuto per giorni interi in tempi buddisti, ho dormito in tempi buddisti e lì ho capito molto. Partivo dall'Italia con la valigia piena di medicine, di sonniferi, perché la mia vita è sempre stata un po' tormentata, e arrivavo in quei posti e poi ripartivo, avevo già buttato via tutta. Allora, siccome attualmente in altri tempi buddisti, posso chiedervi questa. Al centro Ikeda incontriamo alcuni praticanti. Tra loro c'è Katia, buddista dal 2010. Mi piacevano le religioni e alla fine, vagliandone tante, leggendo un po' di tutto, ho scelto il buddismo. Cosa hai trovato di diverso rispetto alle altre esperienze fatte? Il fatto che non è una religione ascetica, è una religione che ti porta a vivere la realtà e affrontarla comprendendo sia le difficoltà che le cose belle. Qual è la differenza tra voi e altre forme di buddismo? Io penso che proprio è nel fatto che non è un buddismo ascetico, vive la quotidianità. Il centro è nato per volontà dell'Istituto Soka Gakkai, la scuola buddista fondata in Giappone nel 1930, amata da molti VIP e che ora in Italia sta conoscendo un vero boom. Più di 70.000 fedeli, quelli che hanno ricevuto il Gongzon al termine della cerimonia di conversione, a cui si aggiungono poi i praticanti occasionali. Al centro Ikeda non ci sono statue di Buddha, non ci sono monaci in abito arancione, solo laici. Soga Gakkai non aderisce infatti all'Unione Buddhisti. Il vice direttore del centro Ikeda, Franco Malusardi. Il buddismo è altrettanto variegato quanto il mondo cristiano, no? E non tutti i cristiani sono riuniti dentro un'unica, non so come dire, entità. Questo magari per noi occidentali è un po' più difficile da capire, perché abbiamo un'immagine abbastanza stereotipata di quello che è il buddismo. Il buddismo è in qualche modo le statue del Buddha, no? Il monaco che vive in un certo modo, no? E così via. Nella realtà il mondo del buddismo è un mondo altrettanto variegato e composto di tanti tipi di realtà. Io mi auguro che, e questo sta cominciando, e questa è anche un'altra delle nostre ragioni, che anche con le altre scuole buddiste ci si possa cominciare a dialogare, no? Allo stesso livello, no? Perché dialogo funziona solo quando si è allo stesso livello in qualche modo, no? Perché finora diciamo che non sono mancate le critiche. Ma questo penso sia naturale, inevitabile. Noi siamo qualcosa di molto giovane e il fenomeno Soka-Kai risale agli anni 30, o più esattamente dovremmo dire poi al dopoguerra, no? Con la vera rinascita da parte del secondo presidente Toda. Un'associazione solo di laici, non abbiamo nessun riferimento dal punto di vista clericale, chiamiamolo così. Caterina, una famiglia cattolica alle spalle, ha cominciato a praticare nel 2009. Non mi dimenticherò mai il momento in cui ho deciso io di fare questa cosa, perché è stato come qualcosa dentro di me che diceva a me stessa: diamoci questa possibilità, proviamo. E da lì io ho iniziato a praticare e non ho mai più smesso, neanche un giorno, neanche nei momenti in cui detestavo o nei momenti in cui per me era molto difficile o nei momenti in cui soffrivo molto, però sono rimasta attaccata a Nam-myoho Renge Kyo come proprio attaccata a qualcosa di profondo, perché è un... iniziare a recitare questo sutra è un cambiamento profondo nella vita di un essere umano, è una decisione grande, perché tu decidi di costruire una felicità che va oltre. La mia vita è cambiata proprio a 360 gradi e cambiando io è cambiato anche il mio ambiente necessariamente, perché c'è un principio buddista che si chiama Esho Funi, che significa proprio non dualità tra l'individuo e il suo ambiente. Quando tu cambi è proprio è una scienza, non è una cosa metafisica. Jutsu alla mano, il rosario buddista, i fedeli presenti si alternano nel condurre la preghiera. Molti si sono avvicinati a questo tipo di spiritualità nella difficoltà, come racconta questo ragazzo. Sentivo il bisogno di qualcosa che mi accompagnasse, perché stavo attraversando un periodo abbastanza difficile. Conoscendo la dottrina buddista, la fede buddista, ho trovato comunque un forte coinvolgimento e soprattutto qualcosa che mi si adatta in prima persona. Lo sento come un vestito addosso, insomma. Fa moltissimo per la società. Io posso parlare per la mia esperienza personale e un anno fa ho sempre usato questo esempio come una barca in una tempesta. Adesso ho molta tranquillità, molta serenità, molta caparbietà anche nel praticare la recitazione mattino e sera. Per la prima volta Papa Francesco, incontrando gli esponenti delle diverse confessioni religiose in Vaticano a pochi giorni dalla sua elezione, ha voluto invitare anche esponenti del Soka Gakkai, ancora Franco Malusardi. Per noi qualcosa di importante, perché chiaramente questo ci dà il titolo anche, no? Per essere all'interno di quel dialogo interreligioso, no? Che secondo noi è fondamentale per la costruzione della pace, no? Noi crediamo molto nel fatto che l'intento della religione sia un intento che comunque porta un miglioramento comunque dell'essere umano. Per noi dialogo interreligioso non significa discutere su qual è la religione più giusta, ma significa mettere in comune quei valori e comunque lavorare insieme per questo, no? E mi sembra che anche la realtà della società nella quale viviamo pretenda questo tipo di soluzione, se vogliamo veramente trasformare, no? E qui dunque, ai bordi del Naviglio Grande, che questa organizzazione cerca di creare un luogo che sia anche di studio, ricerca, incontri per promuovere la pace e il dialogo. Ma che cosa pensano i buddisti di Papa Francesco? Non faccio più parte della comunità cattolica, mi sono sbattezzata 2 anni fa. Penso che sia sicuramente una persona importante in questo momento e ho trovato bellissimo che appena insomma preso il ruolo, ha assunto la sua nomina, ha convocato anche gli esponenti delle altre religioni, quindi questo lo considero un segno di grande apertura. Sicuramente è una persona intelligente. Penso che sia una figura abbastanza innovatrice sul piano proprio della religione cattolica, proprio questa apertura nei confronti delle altre religioni, questo anche tornare alle persone, no? Che appunto diciamo che è il filo conduttore del suo modo di agire. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.